E all'interno del nostro Fujiko Factory apriamo settimanalmente un'inchiesta sull'impatto che ha avuto questa pandemia sul settore musicale e soprattutto sui locali promotori della musica dal vivo. Oggi avremo un'intervista con Alberto Armaroli, direttore artistico della Cantina Bentivoglio. Il Jazz Club da oltre 30 anni, 6 sere su 7, ha promosso 270 serate all'interno della sala musica del locale e altre 60 nei palchi esterni estivi. Questi sono i numeri della Cantina Bentivoglio, inserita dal 2002 dalla famosa rivista americana Down Beat nell'elenco dei 100 più importanti jazz club del mondo. La programmazione musicale curata dalla direzione artistica di Alberto Armaroli e Giovanni Serrazzanetti spazia dalle ritmiche jazz dei concerti settimanali al sound swing, al manouche, al blues e al funk. E la Cantina Bentivoglio non si è mai tirata indietro e in occasione di eventi speciali ha ospitato numerose rassegne e festival di spessore internazionale, tra cui ricordiamo l'Heineken Music Club, l'Alhambra Jazz Club, Alfa Soul Tour e tutte le edizioni del Bologna Jazz Festival. Durante questo periodo di pandemia, il locale ha subito un drastico cambiamento del calendario degli eventi, annullandoli del tutto. E a breve avremo il direttore artistico, come ho anticipato prima, Alberto Armaroli, che ci parlerà di come la Cantina Bentivoglio stia affrontando questo periodo. Discoteche chiuse e mascherine obbligatorie all'aperto nei locali. Stretta del governo per contenere la diffusione del coronavirus in seguito all'aumento negli ultimi giorni dei casi positivi. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Un reddito di continuità che possa, tra un contratto e l'altro, dare uno strumento di reddito ai cittadini, professionisti e professionista dello spettacolo. La musica dal vivo ai tempi della pandemia. E diamo il benvenuto in collegamento telefonico al direttore artistico della Cantina Bentivoglio, Alberto Armaroli. Ciao Ciao a Alberto, come tutti. stai? Ciao a tutti. Come stai? Tra noi colleghi è un periodo che evitiamo di porcela questa domanda, però tutto sommato bene, siamo in piedi, zoppicanti, ma siamo in piedi. Esatto, non ci lamentiamo più di tanto, peggioreremo la situazione. Esattamente. Ci facciamo una risata su tra colleghi, via. Sì, drammatizziamo un po'. E abbiamo ricordato prima che nel corso degli anni la Cantina Bentivoglio ha all'attivo più di 200 serate, 270 serate di musica dal vivo. E volevo chiederti che impatto ha avuto l'emergenza sanitaria sul vostro locale? Quali misure avete adottato? Certo, allora intanto tengo a puntualizzare che le 270 serate di musica dal vivo le effettuiamo ogni anno da più di 30 anni, non sono totali 270 serate, quindi siamo parecchio attivi da questo punto di vista. E l'emergenza sanitaria allora, come tutti, credo, i nostri colleghi ristoratori del centro storico, e non solo, ovviamente anche in tutta Italia, ci ha penalizzati parecchio, soprattutto anche in funzione secondo noi, della poca importanza che stanno dando appunto a tutta quel microcosmo culturale che gira intorno e tutta anche la filiera che gira intorno alla ristorazione, nel nostro specifico anche alla musica dal vivo. Ovviamente, come tutti i nostri bravissimi colleghi, ci siamo attrezzati in fretta e furia per svolgere il nostro lavoro in totale sicurezza, sia per i clienti sia che appunto per i nostri collaboratori e i musicisti che abbiamo ospitato sul nostro palcoscenico. È una situazione abbastanza disperata, data, per cui ovviamente speriamo di uscire al più presto. L'unica cosa che ci rimane da fare è essere attivi e propositivi anche in questo periodo, ecco, senza scordarci mai del grande valore che ha la ristorazione in Italia e soprattutto in una città come Bologna. Esattamente, per cui insomma le conseguenze avute sia il ristorante, la cantina Bentivoglio, ricordiamolo, che oltre alla ristorazione si occupa anche di promuovere grandi artisti del panorama jazz. Esatto, grandi artisti e non solo, nel senso che noi facciamo musica dal lunedì al sabato, quindi tutte le sere, e tutte le sere c'è una band diversa sul nostro palcoscenico. Noi facciamo promozione, questo è il mio lavoro all'interno di Cantina Bentivoglio, di grandi nomi del jazz, ma anche dei tantissimi e bravissimi musicisti locali che orbitano nella scena jazz appunto a Bologna e in Emilia-Romagna. In questo senso tengo a precisare che la nostra è un pochino una missione che abbiamo nel mantenere vivo lo spirito del jazz club, in quanto veramente un ambiente fondamentale per quel che riguarda la crescita dei musicisti, dei giovani musicisti, e anche proprio per quel che riguarda il sociale. Quello, noi diciamo sempre che quello che succede nei jazz club è una cosa che non potrebbe mai succedere in un grande teatro o in una grande piazza con grandi concerti, perché il concerto viene creato dall'atmosfera che nasce tra il musicista che suda sul palco e il cliente invece che è seduto ai nostri tavoli. Certo, fondamentale questo aspetto che hai ricordato anche ai nostri ascoltatori. Ricordiamo che questa è un'inchiesta e giustamente Alberto Armaroli ci sta parlando di come il locale Cantina Bentivoglio stia in qualche modo superando queste intemperie, possiamo dire così, Alberto. Certo, perché non dimentichiamoci che abbiamo la doppia responsabilità, prima come ristoratori e poi come club di musica dal vivo, di diciamo, se non mantenere, comunque aiutare le persone ad arrotondare gli stendi o addirittura a vivere e mantenere le proprie famiglie. Quindi è una doppia responsabilità che in questo periodo personalmente non mi fa dormire bene la notte. Penso tanto a tutte le persone che fanno riferimento a noi appunto per il proprio lavoro. È veramente un periodaccio, anche pensando proprio al tipo di trattamento che è stato riservato a tutto l'ambiente musico-culturale e artistico. Infatti. Sì, poi comunque dopo la prima ondata, definiamola così, di coronavirus, siete riusciti nel corso dell'estate a organizzare qualche concerto? Allora, la normalità non si è mai ristabilita, perché ovviamente il jazz club, appunto come dicevo prima, vive dello stretto contatto che si crea tra i musicisti e il pubblico. Nonostante questo, dal primo giorno in cui abbiamo potuto, secondo le norme che vigevano all'epoca, riprendere musica dal vivo, e cioè con piccoli spettacoli di trattenimento musicale che creassero semplicemente un'atmosfera all'interno del locale, non fossero la tensione primaria della serata, abbiamo iniziato a battere il ferro e tutti i giorni abbiamo sfornato qualcosa per quel che riguarda appunto la musica dal vivo, prima con dei concerti interni al locale e poi per tutta l'estate, tutti i giorni, con il salotto del jazz di Via Mascarella all'aperto, in cui appunto abbiamo fatto esibire tantissimi gruppi. Benissimo, quindi insomma siete riusciti a ristabilire una pseudo normalità, tra virgolette. Sì, soprattutto era importante mandare un messaggio forte e chiaro, ed è quello che, se noi abbiamo la possibilità di fare musica dal vivo e soprattutto di aprire la Ferrando al mattino, noi siamo in prima linea per continuare a fare cultura. Per noi è veramente fondamentale, fa parte del DNA di Cantina Bentivoglio da tanti anni. E noi siamo felici di poter sentire come il direttore artistico voglia in futuro fare in modo che il suo locale ritorni ai fasti di un tempo. E avete mai pensato, ti faccio quest'ultima domanda, avete mai pensato a qualche forma alternativa in streaming per portare avanti la vostra attività musicale? Allora, noi durante il lockdown che c'è stato da marzo abbiamo subito iniziato a concepire un format che ci permettesse di entrare nella casa delle persone che ci volevano seguire, un po' di musica dal vivo. Abbiamo creato questo format che si chiamava Casa Bentivoglio e fondamentalmente erano delle dirette in streaming su Lepida TV in collaborazione con il Comune di Bologna e il Bologna Jazz Festival, in cui appunto c'erano dei musicisti che da casa propria si esibivano dal vivo per la durata di 40-50 minuti in questi concerti appunto casalinghi. Al momento non stiamo pensando a concerti in streaming, perché pensiamo che il messaggio di oggi sia abbastanza diverso rispetto al messaggio che volevamo lanciare all'epoca, qualche mese fa. Ora la situazione è molto cambiata, tra l'altro c'è stata un pochino di confusione creata appunto dal fattore concerti live in streaming senza retribuzioni da parte di alcuni colleghi. E quindi crediamo fortemente che il messaggio da lanciare sia un altro rispetto a quello delle dirette streaming. Ripeto, la situazione è molto differente rispetto a una volta. Io mi assicuro che più che stare incollati davanti a uno schermo, che ogni tanto può fare bene, ma l'importante è veramente riniziare con la musica dal vivo, a sentire i brividi e le vibrazioni che può dare un concerto dal vivo, che è assolutamente tutt'altro che guardare uno schermo davanti da casa, ecco, insomma. Insomma, differisce molto, ovviamente l'essenza del concerto e della musica dal vivo non può essere riprodotta facilmente. No, assolutamente, soprattutto quando si parla di jazz, in cui la componente improvvisativa è così forte nella creazione appunto dei live che non è da sottovalutare per niente. Assolutamente. E a proposito di attività live, come pensate poi possa riprendere dopo questo periodo? Come avete già progettato un ritorno, ecco, delle attività live nel vostro lavoro? Allora, noi sicuramente appena ne avremo la possibilità torneremo ogni giorno a fare musica dal vivo, perché veramente tengo a sottolineare l'importanza che ha la nostra sala musica per il nostro posto. È veramente fondamentale che anche per la città e per gli appassionati di questa musica noi torniamo con il vento in poppa a organizzare serate. Il problema fondamentale è il quando, nel senso che a oggi avevamo creato un palinsesto, quella che noi chiamiamo programmazione musicale, che andava fino a fine dicembre, comprendendo dei grandi concerti, tra cui anche i concerti in collaborazione con il Bologna Jazz Festival, ma al momento è tutto rimandato. Io a livello di date non so veramente come esprimermi. Ecco. Certo, è tutto indefinito, ovviamente. Perché comunque... Sicuramente quando ce ne daranno la possibilità torneremo a fare quello che siamo più bravi a fare, cioè musica del vivo. Sicuramente noi ve lo auguriamo veramente. Grazie Alberto, sei stato grazie molto a voi. Hai spiegato perfettamente come state affrontando e come il vostro settore stia affrontando questa situazione molto complessa. Noi ti ringraziamo, ti salutiamo. Grazie a voi di nuovo. Un grosso in bocca al lupo per tutto e a presto.